piedi lo facciamo, altrimenti da questa parte è Udi, Cesare e Francesco. Da questa parte Lorenzo, Liston e Dario. Aladdin, aiuta me perché siete dispari. Ok? Allora, parte. Secondo e terzo, quando torni dai a Lorenzo il bastone.